confini, terra delle frontiere, sicuri allo straniero. Fanno credere che lui è nemico e invasore da iniettare. Amico e fratello, ci tengono lontani, ci vogliono nemici, ci vogliono nemici. Divisi per bandiera, divisi per razza, divisi per bandiera, divisi per razza, divisi per bandiera, divisi per razza, divisi per bandiera, divisi per razza, divisi per bandiera, divisi per motivi. Gente lontana, divisa da me, per avere totale controllo. Si muore ogni giorno di democrazia, si muore ogni giorno di burocrazia. Infama il diverso, infama il destino. Guarda indietro, rivedi te stesso. Tu eri diverso, tu eri diverso, tu eri diverso, tu eri diverso.